Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per il secondo anno consecutivo, la redazione di Restiamo Animali ha fatto la cosa giusta, promuovendo la trasmissione alla 14ª edizione della Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili, fa la cosa giusta, con uno spazio nostro dove abbiamo potuto parlare con tante persone simpatizzanti, ma anche ostili. La fiera Fa la cosa giusta è un'enorme vetrina delle migliori esperienze di produzione di prodotti e di servizi attenti all'etica e alla sostenibilità ambientale e sociale. Ci sono i prodotti made in jail, cioè fatte da piccole cooperative di carcerati, c'è un settore di trasporto elettrico, un settore di critical fashion, tante proposte per il turismo sostenibile, specialmente a piedi. Poi però, quando si passa all'alimentazione, purtroppo anche in quel tipo di ambiente si mangiano carne e derivati animali a cuor leggero. Anzi, ancora più leggero, in quanto l'etichetta del biologico lascia intendere che gli animali sono stati rispettati fino al momento della loro morte e questo sembra bastare. Non a noi, chiaramente, che abbiamo cercato di capire cosa ne pensassero i visitatori. Così sono nate alcune interviste sulla fiera, sulla nostra presenza alla fiera, ma anche su quella che noi riteniamo una questione imbarazzante e contraddittoria. Sentiamo! Fare la cosa giusta e sentire soprattutto il massimo rispetto verso tutti. Cosa ti evoca questo nome Restiamo Animali? Il fatto che noi siamo scimmie un po' più evolute, non siamo superiori agli altri esseri viventi. Cosa pensi di una trasmissione radiofonica animalista, antispecista e vegan? Penso che sia una bellissima idea, penso che sicuramente la seguirò e mi informerò su dove posso ascoltare tutti i materiali. Restiamo Animali, cosa le evoca? Secondo me dovremmo imparare molto dagli animali. Cosa significa per lei rispetto per gli animali? Che gli animali non sono esseri umani, sono in parte persone da rispettare, ma animali. Ho due figli, però loro le farò scegliere, nel senso cucino anche carne per loro, perché ognuno deve scegliere. Lei è animalista? Sì, sì, animalista e vegana. Perché è diventata animalista e vegana? Perché ho iniziato a lavorare in un canile e da lì. Se ci fosse un referendum, sì, abolire gli allevamenti, lei cosa voterebbe, pro o contro? A favore, pro. Se proteggiamo i deboli, non pensa che dovremmo proteggerli tutti, a prescindere dalla specie, razza, sesso, eccetera? Penso che sia necessario farlo per gli uomini in questo momento. I tuoi genitori ti fanno le polpette, ti fanno mangiare in un certo modo. Certo. Sei convinto che gli animali sono stati creati in funzione dell'uomo, invece è assolutamente falso. Trattare bene gli animali vuol dire non mangiarli e basta, quindi l'allevamento biologico non li tratta bene alla fine, perché poi li ammazza. Fa la cosa giusta, pieno di espositori del biologico che sostengono che sia etico mangiare carne. Cosa pensa di questo? Che sono sempre animali, per cui non sono d'accordo lo stesso. Ho fatto un percorso che è partito dalla salute, mi sono documentata e studiando poi ho anche intercettato dei documentari atroci sulla filiera della produzione della carne, dei prodotti animali in genere. E il vegan in questa fiera come lo vedete? Penso a 4-5 più o meno anni fa, di vegan c'era ben poco, negli ultimi anni invece vedo sempre più stand a carattere vegan. C'è una radio vegana, una cosa abbastanza strana in una fiera che presenta anche poi gli allevamenti biologici. E gli animali da reddito, tra virgolette? Sarebbero gli allevamenti, niente, da abolire. Da abolire? Non sono vegetariana, però mi sto avvicinando a questa filosofia per rispetto degli animali. Lei pensa che sia giusto che gli animali abbiano più diritti rispetto a oggi? Ma io non parlo di diritti ne mancano tanti anche a noi. Il pianto di una mamma mucca quando gli viene tolto il suo bambino è straziante. Io mi sono messo letteralmente a piangere quando l'ho sentito per radio. È una cosa insopportabile, è una cosa che dovrebbe essere insegnata alle scuole. Per esempio in America hanno il Meatless Monday, cioè il lunedì senza carne, che ovviamente premette che appunto durante gli altri giorni della settimana si possa mangiare carne tranquillamente. Immaginatevi un Rape Free Monday, cioè un lunedì senza stupro. Che sì, meglio che stuprare 7 giorni a settimana, però anche lo stupro 6 giorni a settimana è comunque disumano. Le fattorie didattiche, magari biologiche, come quelle che espongono qui, ti dicono che sono degli allevamenti con il benessere degli animali. Cosa ne pensi? Un'altra delle tantissime ipocrisie è mangiare la carne perché l'animale è stato trattato bene, come dire io prendo una bella ragazza, la invito, la porto a cena e poi la stupro come voglio. Questo è veramente un'ipocrisia che deve essere tolta, è insopportabile. Ma la cosa giusta è un po' la patria dell'allevamento biologico. Penso che sia un ragionamento un po' pericoloso che quasi incoraggia poi il consumo. Avete animali? Certo, io ho qui che è la mia papera che ho fatto l'imprinting di Lorenz e mi segue. Infatti ho il mio stemma nell'albergo diffuso di qui. Sto pensando a noi. Gli animali non ho ancora pensato, però se possono gli faccio del male naturalmente. Però rimane. Vegan per la salute o vegan per la liberazione animale? Per la liberazione animale, sicuramente. Sono contenta di aver trovato questa fiera uno stand dedicato all'amore per gli animali. La mancanza di rispetto degli animali vuol dire una mancanza di rispetto per la vita e quindi viva la vita, viva gli animali. Fare la cosa giusta è mettere in contatto persone, attività come la vostra che permettono di allargare un'informazione giusta, coerente e permettere di vivere tutti assieme con animali che condividono con noi questa esistenza su questo nostro pianeta. Fare la cosa giusta è vivere in simbiosi con la natura, trovare la nostra collocazione nella natura. Quindi restiamo animali? Assolutamente sì. Sono fuori dalla fiera Fa la cosa giusta, qua all'ingresso c'è un banchetto organizzato da Oltre la specie Bioviolenza, sono con Davide Maccagnan, ciao Davide. Ciao, sì, stiamo volantinando un po' dappertutto per cercare di portare un messaggio che per noi è fondamentale, soprattutto in occasioni come queste in cui si parla comunque di questioni etiche, quindi di fare la cosa giusta come appunto dice il nome della fiera, e vogliamo portare un messaggio che ultimamente viene un pochino travisato in un certo senso, che in particolare è quello del benessere animale, che oggi viene promosso sotto forma comunque di sfruttamento animale. In particolare il progetto Bioviolenza vuole sottolineare il fatto che un'azienda che alleva gli animali in modo bio, ma con le stesse identiche finalità, quindi quella di produzione di carne, quindi quella di macellare gli animali o comunque di tenerli chiusi all'interno di un allevamento, in realtà è la stessa identica cosa di un allevamento non bio. Certo, gli animali mangeranno magari meglio, magari avranno degli standard etologici leggermente diversi e quindi comunque a livello della loro salute sicuramente saranno un pochino meglio, però in realtà non cambia assolutamente niente dal punto di vista dello sfruttamento animale, dal punto di vista della prigionia e quindi del fatto che loro non sono comunque proprietari della loro stessa esistenza. La mentalità comune è talmente radicata anche nelle persone che cercano di percorrere una strada opposta che si contrappone a quella dello sfruttamento animale, e che comunque tante persone non sono pienamente convinte della possibilità di un risultato differente, e questo li fa già partire col presupposto che piccoli cambiamenti, che in realtà non sono cambiamenti, siano comunque qualcosa da apprezzare e da supportare, quando in realtà secondo me sono addirittura pericolosi, nel senso che rischiano invece di far sì che le persone si sentano a posto senza in realtà aver cambiato veramente nulla dal punto di vista della liberazione animale. We'll be right back. Germania per una notizia che denuncia la condizione degli animali prigionieri negli zoo. Stava per fuggire da uno zoo tedesco, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. Finisce così la vita di Taps, il famoso orso cappuccino, prigioniero insieme al fratello Tips dello zoo tedesco di Osnabrück, dove era nato in cattività. I due fratelli, frutti dell'incrocio tra un orso polare e un'orsa bruna, avevano un manto molto particolare color caffè latte. Questa loro caratteristica li aveva resi delle star, attraendo numerosi visitatori allo zoo. Tra l'altro Tips e Taps erano anche stati portati in tournée per sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica sul riscaldamento globale e sulle conseguenze sugli orsi polari. Ma la notorietà non è servita a salvare la vita a Taps. Restiamo in tema passando dallo zoo tedesco di Osnabrück a quello di Parigi, dove dei bracconieri hanno barbaramente ucciso Vince, un rinoceronte bianco maschio di 4 anni, per rubargli il prezioso corno. Durante la notte tra il 6 e il 7 marzo, presso lo zoo di Thuarie, alle porte di Parigi, i bracconieri sono entrati in azione e dopo aver ucciso con 3 colpi di arma da fuoco il rinoceronte, ne hanno prelevato il corno utilizzando una motosega. Alla riapertura dello zoo, il personale ha fatto il tragico ritrovamento. Il delitto ha avuto luogo nella zona dello zoo dove fino a quel momento vivevano 3 rinoceronti. È il primo caso di bracconaggio di rinoceronte avvenuto nel cuore d'Europa. Dopo Otto Maiale Speciale, un progetto editoriale finanziato in crowdfunding, i cui proventi andavano in parte dedicati alla casa famiglia per umani e altri animali Luna Corre, la stessa autrice Stefania Bisacco torna a proporre un progetto editoriale sempre in crowdfunding e lo presenta nel blog produzionidalbasso.com per finanziare stavolta il Rifugio Agripunk, un paradiso dedicato agli animali recuperati da sfruttamento e schiavitù che si trova in Toscana, vicino ad Arezzo. Il progetto editoriale stavolta si intitola Con occhi animali, un libro capace di trasmettere un immaginario differente da quello violento, gerarchico e specista nel quale ogni bambino, suo malgrado, è immerso. Il crowdfunding in favore di Agripunk terminerà lunedì 20 marzo 2017, quindi siete pregati e pregate di agire in fretta, se questa vi sembra una buona causa. A noi sembra che lo sia. Parole in rima, stessa autrice, tema antispecista e beneficenza. Sono questi i punti in comune delle due recenti autoproduzioni per bambini scritte e illustrate da Stefania Bisacco per un crowdfunding a favore di Agripunk. Con occhi animali e Otto Maiale Speciale. Con diverse tipologie di offerte si potrà sostenere questo rifugio per animali liberati e ricevere a casa uno o entrambi i libri. E se la storia di Otto, il maiale che proprio Stefania ha salvato, era già nota all'epoca del crowdfunding per la casa famiglia Luna Corre, i tanti protagonisti di Con occhi animali che si avvicendano e si confondono in una sorta di metamorfosi oltre le barriere di specie sono tutti da scoprire. Un viaggio attraverso i loro occhi tra cielo, mare, terra, gabbie, circhi, alla ricerca della libertà. La stessa che ha conquistato il maiale Otto, che tra un protagonista e l'altro fa capolino per raccontarci anche la sua storia. Stanotte ho fatto un sogno strano, vedevo il mondo con occhi di gabbiano, il vento soffiava sotto le mie ali e tuffandomi in mare ammiravo i fondali. Io sono Otto, maiale speciale, e la mia storia ti voglio raccontare. Un giorno ho sentito al di là delle sbarre: del maiale non si butta via niente. Lo credo, ho risposto, sono un essere vivente. Con un balzo sono uscito dall'acqua e opla, sono diventato una cornacchia. Sono tutta nera io, ma so volare e non c'è posto dove non possa arrivare. Sognavo ciò che sogna ogni animale, acqua fresca, sole, qualche amico leale. Girovagando nel mezzo del prato, un topolino ho incontrato. Tutti mi odiano, non so perché, ma io non ci bado e vivo da re. Vedevo i miei amici andare e non tornare e temevo di vedere anche io quel giorno arrivare. Curiosando, sono finito in un posto non bello e ho incrociato lo sguardo triste di un vitello. Il ricordo del pascolo è ormai lontano, qui è freddo e buio e io sono solo. La mia mamma non mi avrebbe mai lasciato, ha lottato per me, ma nulla ha potuto. Ma io sono speciale e questo è dimostrato, perché tra mille proprio me hanno liberato. Ho visto le zampe enormi di un elefante, ma i suoi occhi erano piccoli, lo sguardo assente. Sentivo i bambini ridere e applaudire, ma io ero infelice, volevo scappare. Oggi ho nuovi amici, acqua fresca e sole, e se mi va, posso annusare un fiore. D'un tratto mi sveglio di soprassalto, il cuore in gola ed un peso sul petto. Vedo nel buio due occhi fissarmi, la mia gatta non smette di guardarmi. Io ti voglio bene, ma tu sei felice? O anche una casa può essere piccina per una piccola tigre bambina? Ora ti lascio aperta la finestra, corri sui tetti con gli altri gatti, libera e bella come una stella. Ma non dimentico, e non fallo neanche tu, tutti coloro che non ci sono più. Loro, imprigionati, tristi e spaventati. Io, coi nuovi amici, felice sui prati. Nessun animale vuole essere prigioniero. Adesso lo so e ne farò tesoro. Libertà è una parola deliziosa e per ogni animale è la cosa più preziosa. Con Occhi Animali e Otto Maiale Speciale, due autoproduzioni editoriali di Stefania Bisacco, per bambini di ogni età. Crowdfunding a favore del rifugio AgriPunk in Toscana. Per info, agripunkblog.blogspot.it. Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Voglio innamorarmi di una cantante leggera e sincera, leggera come una cena vegetariana, una settimana che togli la sera. Mancano pochi giorni a primavera e noi ci portiamo avanti col lavoro. Cioè, perché mica vorremmo rinunciare ad un picnic senza crudeltà in un bel prato, col sole che ci fa sintetizzare la vitamina D. Ecco una ricetta ad hoc per le nostre scampagnate, la tradizionale torta al testo umbra farcita. Gli ingredienti per 4 persone sono per l'impasto della torta 500 g di farina tipo 0, un pizzico di bicarbonato, un pizzico di sale, un cucchiaino di aceto di mele. Per la farcitura, uno spicchio di aglio, due peperoni, un pomodoro maturo, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, qualche foglia di basilico, 100 g di stracchino vegan, sale. Setacciate la farina e disponetela a fontana su una spianatoia. Aggiungete un pizzico di sale e il bicarbonato, quindi impastate con acqua e un cucchiaino di aceto di mele e lavorate fino ad ottenere un impasto omogeneo e morbido. Lasciate riposare per 20 minuti. Nel frattempo preparate la farcitura. Pulite i peperoni e privateli dei semi, del picciolo e delle parti bianche. Tagliateli a strisce non troppo sottili. In una padella fate rosolare l'aglio tritato finemente e qualche foglia di basilico. Unite i peperoni e fate cuocere a fuoco medio. Aggiustate di sale e lasciate sul fuoco fino a quando i peperoni risulteranno morbidi. Leggera come la brezza sul mare, come uno spumante frizzante la sera. Voglio innamorarmi. Stendete la pasta dello spessore di un centimetro e delle dimensioni della padella in cui si cuocerà, da utilizzare se non si dispone dell'apposito testo. Fate scaldare bene la padella per qualche minuto e aggiungete un pizzico di sale. Mettete la pasta bucherellandola con una forchetta, questo affinché la torta non si bruci durante la cottura. Fate cuocere per circa 10 minuti girando a metà cottura, possibilmente evitate di rigirarla più volte. Tagliate la torta al testo a metà e spalmate con lo stracchino vegan, quindi farcite con i peperoni e il pomodoro tagliato a fette. Salate e condite con un filo di olio crudo, chiudete e dividete a spicchi. Voglio innamorarmi di una cantante di musica leggera, tipo la Mazzini, all'inizio della sua carriera. L'amore nasce come nasce una canzone d'amore. L'amore è come trovarsi dentro una canzone. L'amore. Gli animali, prigionieri negli zoo, conducono una vita triste e spesso muoiono di morte violenta. Ma anche quelli selvatici non godono di una sorte molto migliore. Un esempio viene da Fukushima in Giappone, dove è in corso una mattanza di cinghiali. Dal 2011, infatti, quando il disastro nucleare e il terremoto hanno svuotato la città, i cinghiali sono scesi dalle montagne e si sono stabiliti nella città deserta. Sono animali che non possono essere mangiati in quanto probabilmente hanno ingerito sostanze radioattive attorno alla centrale e quindi sono stati valutati come pericolosi e condannati a morte dall'uomo, lo stesso uomo che ha causato il disastro nucleare. E in Italia? In Italia c'è dell'ottimismo perché sembra che il piano lupo si ridimensioni con il probabile stralcio della parte relativa alla possibilità di uccidere fino al 5% dei lupi presenti sul territorio nazionale. Ancora non è detta l'ultima parola e occorre continuare a vigilare fino alla prossima data decisiva della conferenza Stato-Regioni, che dovrebbe essere quella del 30 marzo. L'associazione Ecoradicali nel blog www.ecoradicali.it segnala che la questione degli abbattimenti di ibridi e vaganti però non è risolta. Ovviamente non saremmo per niente soddisfatti se il piano lupo venisse approvato, lasciando intatto quel capitolo che riguarda gli ibridi e i vaganti, cioè la possibilità di uccidere gli incroci tra cani e lupi e altri cani vaganti, prima di tutto perché non ne abbiamo il diritto e poi anche perché, quando si tratta di sparare, nessuno è in grado di fare un esame del DNA. Manterremo alta l'attenzione sulla questione. Chiudiamo con una notizia tenere e positiva. Per le vie di Trento è stato notato giorni fa un giovane che camminava seguito da un agnellino, che lo seguiva passo passo come un cagnolino e che indossava un cappottino proprio come quelli che indossano certi cani freddolosi. Alle molte persone che hanno fermato il ragazzo, lui ha risposto di essere originario di Cavedine e che quando ha saputo che volevano sopprimere l'agnellino, si è offerto di salvarlo e tenerlo con sé. Ci sembra una bella storia. E una proposta che potremmo fare per festeggiare la prossima Pasqua potrebbe proprio essere questa. L'agnello stavolta, invece di mangiarlo, salvatelo. Chi ha fede poi non farà fatica a credere che solo l'agnello che è stato salvato toglierà i peccati dal mondo. Il nostro tempo è scaduto, ma non lasceremo questo microfono prima di aver ringraziato le voci, ma anche i silenziosi collaboratori che hanno reso questa puntata possibile e che sono stati Agata, Roberta Marino, gli intervistati anonimi di Fa la cosa giusta, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco e colei che fa sempre le cose giuste, Camilla Lattanzi. Con la trasmissione Restiamo Animali, l'appuntamento è tra una settimana esatta a meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.